cuore e denari. I consigli della settimana. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. E come tutte le domeniche, eccoci di nuovo qui per parlare di genitori e figli in relazione naturalmente all'attualità. E la cosa più attuale è la chiusura delle scuole. Deborah, io tornerei a scuola davvero? Per godermi il piacere dell'ultimo giorno di scuola. E soprattutto il piacere della previsione di tutto quello che di bello ci potrà essere nel corso dell'estate, no? La magia dell'attesa di qualcosa di magico, davvero. Vacanze lunghe. Infatti. È suonata l'ultima campanella questo venerdì di questo anno scolastico e un boato di gioia, ci sembra un po' di averlo sentito così virtualmente a riempire le nostre città, no? Sì, Nicoletta? Assolutamente, ci uniamo a questo boato. Sicuramente un boato ci sarà stato in casa di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta che di quei boati ne ha sentiti ben 4, appunto, uno per ognuno dei suoi figli. Alberto, buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Effettivamente io sono circondato da molta gioia in questi giorni in casa mia. Senti, quindi sei sopravvissuto ai festeggiamenti? Sì, sì, sì. La fine della scuola è veramente sempre un evento che viene celebrato in lungo e in largo nella mia famiglia. Dipende però da come finisce la scuola, perché non per tutti le scuole finiscono, per altri finiscono, ma hanno in qualche modo un po' un proseguimento. Parlo dei ragazzi che devono misurarsi con qualche successo scolastico, debiti e dintorni, e quindi questo impegna i ragazzi ad un'estate un pochino più faticosa e anche le famiglie a supportarli, a seguirli. Alberto, tu sei stato graziato, tutti promossi. Sì, sì, sì, quest'anno ci è andata bene. Però Alberto, di fronte ad un fallimento scolastico, quali sono le prime considerazioni da fare? Ma io direi, partiamo da quelle oggettive. La prima cosa chiaramente è escludere che ci sia un disturbo specifico dell'apprendimento come la dislessia, però per i figli che sono per esempio alle scuole superiori questo sarebbe già stato identificato precedentemente. La domanda poi diventa come mai, se a scuola magari è sempre andato abbastanza bene, quest'anno ha fatto così fatica. Quindi di nuovo come genitori potremmo domandarci: c'è stato qualche problema specifico in famiglia, una separazione, una malattia, qualche evento magari traumatico che ha impattato la capacità di studio, attenzione e concentrazione di un figlio. Un altro aspetto importante è, soprattutto con i nostri figli che sono nativi digitali, capire se quando studiano riescono ad avere un ambiente, l'abbiamo già detto anche più volte nelle nostre domeniche, che gli permette di rimanere attenti e concentrati. Spesso telefonino, WhatsApp, computer, tablet, videogioco, tutto intorno al libro su cui si deve studiare la lezione, ecco, questo è un enorme distrattore, e allora su questo bisogna fare una considerazione, proprio impostare un nuovo modo di studiare per l'anno successivo. Per chi ha fallito invece nel primo anno della scuola superiore potrebbe esserci invece un problema di orientamento, cioè non è stata scelta la scuola o l'indirizzo più adeguato per il ragazzo, e quindi questa bocciatura può essere in realtà proprio un punto di riprogettazione, di ripartenza, e una cosa da verificare magari insieme al team degli insegnanti che un po' ha decretato il fallimento scolastico dello studente. E certo, naturalmente però non ci dobbiamo dimenticare dei genitori, perché chiaramente nello spettro dei fallimenti c'è probabilmente da considerare anche questo, no? Genitori che possono sentirsi per un attimo inadeguati a gestire queste situazioni, anche se immagino che non sempre arrivino anche loro impreparati ad una bocciatura del figlio o ad un debito, se la situazione è un po' meno grave, no Alberto? Sì, è vero, in generale la bocciatura di un figlio per molti genitori diventa una sorta un po' anche di bocciatura della mamma e del papà che siamo di fronte a questo figlio che non ce la fa a scuola. I genitori si mettono molto molto in crisi. Io direi però che non ci serve andare tutti in crisi di fronte a un fallimento scolastico, un insuccesso del figlio, bensì ci serve avere un atteggiamento positivo, proattivo, intelligente, possibilmente anche un po' competente, verificare che cosa dobbiamo attenzionare, cioè da dove partiamo per capire quello che è successo. Quindi un consiglio che darei io è prima di tutto confrontarsi con il proprio figlio: che visione ha lui del suo insuccesso scolastico, che motivazioni adduce, e è un figlio che parla solo di "è tutta colpa degli insegnanti" o riesce a verificare che ci sono dei passaggi magari che lo riguardano, che in qualche modo hanno determinato quella fatica. Secondo me un altro ottimo confronto è quello con i docenti, cioè ogni genitore che si trova a confronto con un evento così critico ha proprio un po' il diritto di verificare con la scuola che cosa è successo, che consigli dà la scuola e come in qualche modo viene reindirizzato il percorso a partire dall'anno successivo. E poi è importante stabilire un piano d'azione, soprattutto per chi ha dei debiti formativi, cioè provare a capire che quel debito potrebbe essere in realtà un momento in cui durante l'estate si rifà un po' di allenamento in una materia in cui si fa parecchia fatica, progettare insieme al figlio il percorso del recupero durante l'estate e eventualmente darsi una o due scadenze con un docente di riferimento per verificare qual è il livello di preparazione del figlio. Alberto, hai dato dei consigli ai genitori, pensiamo anche ai ragazzi, come vivere questo momento che è molto faticoso perché ricevere un debito è in qualche modo uno scotto, no? Perché insomma è un momento faticoso e nello stesso tempo anche parliamo ai genitori che spesso si sentono un po' così in dubbio se punire il ragazzo, quindi evitare, non so, di fargli fare delle uscite con gli amici piuttosto che dargli comunque un castigo, oppure invece è giusto accompagnarli e aiutarli a superare questo periodo, magari dandogli delle indicazioni per prepararsi con un buon allenamento a iniziare il prossimo anno. Direi che la prima cosa è verificare che cosa ha combinato davvero il ragazzo durante l'anno scolastico, cioè ci sono genitori che hanno proprio la consapevolezza di figli che si sono davvero dati tanto da fare e poi non ce l'hanno fatta. Allora, secondo me, qua non si aggiunge dolore al dolore, ma si fa una valutazione un po' più oggettiva e ci si arma di santa pazienza e di un po' di competenza per vedere come rimediare. Ci sono dei figli, invece, che davvero non hanno fatto niente, sono stati molto fannulloni. Un po' cialtroni. E in questo caso? Questi sono figli in cui, invece, una punizione, proprio una restrizione di spazi di libertà e un presidio un po' attento di un progetto di riparazione al danno scolastico che è stato fatto serve molto. Io sconsiglio sempre ai genitori, ma magari ne parleremo in un'altra puntata, di lasciare troppo vuoto il tempo estivo sì. del figlio, bene riposarsi, ma anche dare proprio una direzione, un progetto, una possibilità. E a figli che davvero, insomma, non hanno combinato niente durante l'anno, un po' per pigrizia, ecco, questi sono proprio figli che devono risentire nel tempo dell'estate che c'è un progetto da perseguire, un impegno nel quale si devono dimostrare coinvolti e che diventa un po' un lascia passare poi per ripartire l'anno successivo con una buona dose di impegno, con una sorta di contratto in cui il figlio dice al genitore: vado a scuola non per scaldare un banco, ma perché in qualche modo ho capito la lezione. 20 secondi di tempo, Alberto, per i consigli di lettura di questa settimana, anche 15. Vediamo se sei promosso. Allora, gli adulti direi La scuola di Lucignolo, di Francesco Dall'Oro, pubblicato da Urrà, che è proprio un libro che aiuta a capire le ragioni del disagio scolastico e aiuta i genitori a capire come aiutare i figli per superarlo. Ai ragazzi, invece, un libro di Matteo Rampin, pubblicato da Salani Editore, Come imparare a studiare, un ottimo libro che insegna il metodo di studio, che spesso è proprio il problema, imparare a imparare per alcuni ragazzi che hanno fallito è la cosa fondamentale. Alberto, per lei promosso. Dai, promosso. Grazie Alberto. Come sempre. Buona domenica. A voi buona domenica. E in chiusura vi proponiamo questa scheda, un piccolo estratto da A scuola con Sun Tzu, un manuale strategico, Nicoletta, per fare che cosa? Per fare guerra alla scuola e vincere la promozione, scritto da un ragazzo o da una ragazza, anonimo, ma che dice di essere del quarto anno. A scuola, la vittoria che conta è la promozione. Poi ce ne sono altre. Stabilire buoni rapporti con compagni e insegnanti, imparare cose utili o che ti piacciono, acquisire un buon metodo di studio, padroneggiare una materia, ottenere una preparazione che sia utile per il futuro, sviluppare il carattere, costruirsi una personalità forte. Ciascuna di queste vittorie è qualcosa per cui vale la pena combattere. Ci sono invece vittorie che non contano nulla e per le quali non vale la pena combattere. Rubare un voto estorcendo il compito a un compagno, fingere una buona preparazione ricorrendo a espedienti, comprare una promozione, avere pessimi rapporti con compagni o insegnanti, attraversare gli anni della scuola senza migliorare in niente. E noi ci risentiamo naturalmente domani, come sempre, a partire dalle 11, con cuore e denari.